Eccoci ad una nuova puntata di Absolute Beginners, un'altra puntata dedicata questa volta direi più che mai a ottimi gruppi, ma veramente poco conosciuti. Dico bene, Sasà? Sì, qualità molto alta questa musica. Oggi parliamo degli Iceburn. E chi li conosce? Io non li conoscevo. Gruppo formatosi a Salt Lake City, nello Utah, quindi anche geograficamente, ultimamente avevamo parlato spesso di gruppi della California, provenienti da città ben più famose. Oggi parliamo di questa cittadina di 200.000 abitanti, dove metà della popolazione è mormone. Beh sì, fu fondata dai mormoni a metà 800, cercavano un luogo che finalmente gli consentisse di scappare alle persecuzioni. Già erano scappati dall'Europa, poi anche negli Stati Uniti non erano ben visti, riuscirono ad incastonarsi nel mezzo delle montagne rocciose e crearono dal nulla, in un'area molto arida, questa città, Salt Lake City. E direi che mai come in questo caso l'essere situati perifericamente rispetto al resto degli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato riguardo ad altri gruppi, era così anche per gli Fugees all'inizio da Chicago, quando iniziarono l'hardcore non c'era a Chicago, ma qua siamo nel 1993 e i tempi sono diversi, eppure essere eccentrici penso abbia aiutato questi Iceburn che sono veramente molto originali. Thank you. dicevamo, Salt Lake City ha influenzato molto questi Iceborne, quantomeno dal mio punto di vista ha consentito loro di esprimersi liberamente senza essere influenzati da scene di alcun tipo, ma di scegliere i suoni che in quegli anni più gli piacevano. Siamo nel 93, questo è il loro secondo disco, il primo era molto più vicino all'hardcore. Questo cos'è? È un miscuglio di grunge, siamo nel 93, quindi in piena esplosione del grunge di Seattle. C'è dentro delle post-hardcore, quindi perché i suoni sono quelli hardcore, ma non è suonato dritto come un disco di Minor Threat o forse dei Bad Brains. Eppure è un miscuglio, c'è anche del jazz. Ma sì, vabbè, forse in questa traccia che abbiamo ascoltato adesso i nostri ascoltatori mi hanno riconosciuto forse appunto la prima associazione che tu hai fatto, quella del grunge, perché la voce, proprio ne stavamo parlando adesso, ci ricorda quella di Rain Staley, della Degli scena Alice in Chains. degli Alice in Chains, e poi geograficamente non siamo troppo distanti da Seattle, quindi ci può stare, però i nostri ascoltatori sia in questo album, Hephaestus del 93, pubblicato per Revelation Records, ma soprattutto poi in futuro, insomma, i nostri ascoltatori potranno sentire quello che poi le seconde associazioni che hai fatto, ovvero jazz e miscugli di sonorità. Thank you. stabs the veins of steel with my soul. You cannot check the right. Sai cosa pensava l'utente medio Revelation? L'utente, scusate, non è la parola corretta. Il cliente medio Revelation. Revelation è l'etichetta che pubblicava questo Hephaestus, album del 93 degli Iceborne. Ma Revelation era un'etichetta del Connecticut dedicata e nata grazie a Ray Capo di YouTube Today, dei Gorilla Biscuits. Quindi, una delle etichette per eccellenza dell'hardcore straight edge più duro e ortodosso. Etichette che aveva pubblicato i Judge, tantissimi band di hardcore duro e puro. E immagino il classico adepto di questo genere che si comprava all'epoca tutte le uscite senza guardare tutto quello che usciva per Revelation, trovarsi questi Iceborne tra le mani. Ma è forse, come si suol dire, l'amore cieco, nel senso che magari qualcuno all'interno dell'etichetta ascoltò il gruppo e se ne innamorò. Il gruppo di, è ora di dirlo, Gentry Dansley, che è chitarrista e cantante del gruppo, unico membro che è presente nel gruppo dalla prima all'ultima uscita. E tra l'altro il gruppo inizialmente nacque come trio, basso, chitarra e batteria, ed è la formazione che stiamo sentendo in questo album del 93. Successivamente, invece, pur pubblicando per Revelation, il gruppo si estese a un sestetto, e la parola sestetto non è a caso perché poi si avvicinò sempre di più a sonorità jazz che forse in questo album non sentiremo, ma che consiglio ai nostri ascoltatori di controllare, e si chiameranno addirittura Iceburn Collective, proprio insomma come se fosse un gruppo jazz. Thank you. watch the wall only grow higher. Beh, mica male, anche tecnicamente non sono il solito gruppo di ragazzini, eppure vengono da una cittadina di provincia che hanno contribuito profondamente a ravvivare ed è una cosa che ci piace molto, è bello vedere piccole realtà che partendo da gruppi che non hanno alcun tipo di successo internazionale paragonabili appunto ai gruppi grunge di cui parlavamo precedentemente, eppure complice anche una piccola rivista locale che si chiamava Slug Mag, che sta per Salt Lake City Underground Magazine, molto bello, complice anche questa rivista, o comunque in simbiosi con questa rivista, gli Iceborne riuscirono ad avere un buon successo locale, avere un contratto in Connecticut con la Revelation e comunque girare gli Stati Uniti, fare tour. Sì, vabbè, poi hai detto gruppo di provincia, assolutamente, però volevo ricordare agli ascoltatori che Gentle Dansley ha studiato alla Utah University musica, composizione, è a tutti gli effetti un musicista e infatti, tra l'altro, negli ultimi pezzi che abbiamo ascoltato nell'ultimo inframezzo rispetto ai primi della puntata sono un pochino più sperimentali, entriamo già in sonorità un pochino differenti e che si distaccano un pochino dalla forma canzone grunge che abbiamo ascoltato nella parte iniziale della puntata e di sicuro scusate una influenza è quella del progressive rock o progressive metal E testimonianza neanche il fatto che questo che stiamo ascoltando è un doppio LP diviso in quattro parti, ogni titolo preceduto da una parola, una di quattro parole che sono Iron, Brick, Flies, Water and Blacksmith, strutture che perlomeno a livello logico così erano proprie del progressive. Sì, un doppio album, ogni facciata dell'album ha un suo nome. Roba da King Crimson. Esatto. Certo, ci voleva un po' di pazienza, o no, neanche, di concentrazione e attenzione per ascoltare questi Iceborne. Dicevamo all'inizio che l'ascoltatore medio di hardcore magari sarebbe stato un po' spiazzato. Ma è spiazzato sicuramente, infatti guardando un pochino interviste mi è capitato di vedere che Gentry Dancer racconta che il gruppo veniva invitato a festival di generi disparati, dal jazz al metal al progressive, delle art exhibition, esibizioni di arte, università, e a volte capitava che qualcuno non apprezzava la musica che facevano, perché magari ad un festival jazz un vecchietto che andava per aspettandosi un quintetto standard si trovava qualcuno a suonare questa chitarra distorta e a cantare grunge, sonorità metal, insomma, a volte trovarono questi ragazzi qualche difficoltà. like my we'll be right back. Questi erano i Iceburn, spero proprio vi siano piaciuti, dubito che fossero conosciuti dalla maggior parte di voi, gentili ascoltatori, siamo alla fine. Per una volta ricordo il blog dove potete leggere e trovare i podcast, si chiama neverbeginners.blogspot.com. Siamo peggio degli Iceburn, vogliamo rimanere nella nostra piccola realtà provinciale berlinese. Assolutamente, tra l'altro nel sito potete trovare il link per il podcast che potete anche scaricare. Tornando un attimo agli Iceburn, le ultime notizie che abbiamo di loro sono datate 2007, quando suonarono ad un festival organizzato dalla rivista che hai nominato tu, Slug Mag. Altrimenti Gentry Densley continua il suo lavoro di libraio, bibliotecario nella prigione di Salt Lake City, e insegna musica, e chissà se un giorno deciderà di regalarci nuova musica. Io consiglio personalmente anche gli album sotto il nome Iceburn Collective, soprattutto per gli ascoltatori un pochino più indirizzati verso la musica jazz, ma insomma qualunque episodio della discografia di questo gruppo è interessante e vario. Ovviamente, come tanti nostri ospiti, non hanno fatto di loro musica un reddito, un lavoro, e anche fare comunque il libraio in prigione, tanto di cappello. E poi, a differenza magari di altri, la personalità di Gentry Densley, forse lui lo sapeva sin dall'inizio che non avrebbe, insomma, si sta divertendo finché ha potuto, come tante band underground. E con queste alla prossima, ciao a tutti, ciao Babe, ciao Sassà.